questo è il ballo. Lei ha già citato le antiomelaridici che mi si attorciglia la lingua. Il settore delle pensioni negli ultimi anni è stato intervistato. È stato che oggi Antocianine, non lo so, Mimma ci chiama da Bergamo e Fernando dalla provincia di Cremona. Sì, oggi buongiorno, oggi abbiamo le papere. Mimma, buongiorno. Buongiorno. Si impaperi un po' anche lei. Ecco, la prego, per solidarietà. Mi devo scusare col dottor Keller perché l'ho chiamato Render facendo confusione con la società. Dottor Keller, abbia pazienza, sono appena tornata dalle ferie anch'io, devo resettare, ho resettato totalmente la materia grigia, quindi ancora mi devo rimettere a posto. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E a Noè, che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Che anno è? Che giorno è? Ma non sarà meglio chiedersi anche che ora è? Perché sono le 10:30 e questo è il nostro nuovo orario. Tu, Deborah, sì, non resistevi dalla voglia di vedermi, hai fatto addirittura anticipare di mezz'ora a Cuore Denari. Ero in fibrillazione. Questo è amore. È amore, è amore. Mi sei mancata settimana scorsa, lo so. Però adesso la coppia di nuovo in pista con tante belle novità per il nuovo palinsesto, ve le racconteremo strada facendo. Allora, vuoi sapere subito l'argomento del quale parliamo? Che so che peraltro anche un pochino ti sta a cuore. Mi tocca da vicino. E poi racconteremo anche perché. Allora, quando tu non c'eri la settimana scorsa mi sono dovuta occupare della ripresa dell'anno scolastico, certo, perché qua le famiglie stanno mettendo mano al portafoglio, Nicoletta, e quindi abbiamo parlato di tutti gli impegni che mamma e papà stanno affrontando fra acquisto di libri, corredo scolastico e tutta l'organizzazione connessa alla ripresa della scuola. Riprendono però anche i corsi universitari, quindi chiaramente un'altra operazione che stanno affrontando studenti e famiglie è quella della ricerca della locazione per gli studenti. Questo mercato lo sappiamo bene, lo leggiamo dai giornali spesso, è descritto spesso come una giungla, con situazioni al limite della legalità, prezzi alle stelle per singole stanze, grande confusione sulle modalità con cui dovrebbe essere siglato un contratto d'affitto regolare che tuteli tutti, no? Studente e proprietario. E giustamente. Allora, oggi ai nostri amici che ci seguono da casa daremo un quadro sui prezzi di mercato e vi spiegheremo le regole della locazione in questi casi. Voi intanto diteci come vi state muovendo, che domande possiamo fare, Nicoletta, ai nostri ascoltatori? Magari che università hanno iscritto i vostri figli, quanto costa farli studiare lontano da casa, perché vogliamo fare un po' i conti, perché esatto, il cuore sanguina quando i figli vanno esatto, lontano, ma sanguina anche il portafoglio. E il portafoglio piange. Allora, avete già trovato casa, per meglio dire la stanza? 800 24 00 24, il numero verde per le vostre riflessioni. Ancora una volta ripartiamo con il palinsesto dopo le vacanze, obbligando le famiglie all'ascolto a mettere mano al portafoglio. E a proposito di ripartenza, oggi anch'io riprendo a lavorare, credo come tanti di voi. Come sta andando? Perché gli inizi sono sempre un po' difficili, la testa è ancora in vacanza e nonostante il riposo sembra di non avere le energie per affrontare l'anno di lavoro che abbiamo di fronte, quasi di non essere più capaci e normali. Domani secondo me andrà sicuramente meglio, quindi via quell'aria da primo giorno di lavoro e su, un bel sorriso aiuta, perché sorridere riduce lo stress, non solo quello del primo giorno, ma permette addirittura, pensate, al sistema immunitario di funzionare meglio, anche il cuore più contento perché rallenta il suo battito, quindi sorridete anche se magari non avete tutta questa voglia, sforzatevi perché funziona, anche se il sorriso è finto, il sorriso di circostanza vale ugualmente. Poi con calma, se riuscite a guadagnare uno specchio e a mettervi davanti, facciamo un autotest, ma non c'è fretta, ne parleremo a partire dalle 11:15, intanto pensiamo al sorriso che abbiamo, al sorriso che offriamo, al sorriso che ci aiuta a sentirci meglio. Oggi per me è stato quello di Deborah, perché il primo giorno di lavoro uno è un po' arrugginito e i denti sembrano più bianchi con l'abbronzatura quindi facciamo la nostra bella figura e pensiamo anche ai sorrisi che abbiamo ricevuto e a quelli che portiamo nel cuore. Mandateci anche il vostro sorriso, ecco, questo è veramente una richiesta che vi facciamo con il cuore. Riempiamo la nostra pagina Facebook, contagiamoci, vi manderemo anche i nostri. fondere l'affitto con l'affetto. Siamo uniti per pagare la bolletta. Siamo nomadi in tutti i condomini. Siamo clandestini, clandestini. Siamo amici approssimati per difetto. Siamo amici solamente per contratto. E non siamo né fratelli né cugini. Siamo coinquilini. Nella scelta della colonna sonora, ancora una volta, Marco Lombardo non ha sbagliato, si vede che ha una certa esperienza alle spalle. Allora, studiare da fuori sede, un'esperienza certamente affascinante, anni indimenticabili ma sicuramente anche costosi. In alcune città italiane, stando agli ultimi dati, si arriva a sborsare mediamente più di 600 euro al mese per appena un monolocale, da quanto rivela un'indagine di scuola.net condotta su 2000 universitari. Circa il 60% dei fuori sede vive in appartamenti privati, il 24% nelle residenze universitarie e il 17% nei collegi. L'indagine ha anche messo in luce come il problema degli affitti in nero sia ben lontano dall'essere risolto. Allora, alla luce di questo quadro, subito mano alla cornetta, mamme e papà all'ascolto, ma anche studenti, se volete, se siete proprio alla ricerca in questo momento e vi siete imbattuti sulle nostre frequenze radiofoniche. 800 24 00 24, siete alla ricerca di una casa o di una stanza, in quale città l'avete trovata da poco, quanto vi costa, quanto budget avete a disposizione e quali sono le principali criticità con cui vi state confrontando. 349-238-6666 è il numero per i vostri sms. Anche l'ufficio studi di immobiliare.it ha condotto un'indagine sul mercato della locazione per gli studenti, ce la racconta tutta Carlo Giordano, amministratore delegato di immobiliare.it. Buongiorno, benvenuto. Bentrovati, buongiorno. Buongiorno. Grazie al dottor Giordano. Peraltro daremo la parola anche agli studenti che si mettono in rete tra di loro per informarsi ed essere consapevoli. Saluto e ringrazio per essere con noi Alberto Campailla, coordinatore nazionale di LINK con la K, sindacato studentesco, che ha diffuso una guida agli affitti rivolta proprio agli universitari. Alberto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, Carlo Giordano, cominciamo subito con le cifre. Possiamo dire che nel panorama dell'immobiliare, quello delle stanze, è un mercato che davvero non conosce crisi? Sì, assolutamente, specialmente se confrontato col mercato immobiliare italiano, che negli ultimi 10 anni ha visto un crollo nelle compravendite e una riduzione nei canoni di affitto. Il mercato invece delle stanze, prendendo solo gli ultimi 5 anni, è cresciuto del 20% nell'offerta, oggi coinvolge più di 170.000 appartamenti, per un valore da 1,5 miliardi di euro di locazione. Nella vostra inchiesta, su quali città vi siete concentrati? Immagino quelle che hanno più ovviamente gettonate. Esatto, le più gettonate, le città universitarie per eccellenza. E allora, che cosa avete scoperto nel 2015? Quanto costa una stanza? E, indubbiamente fare media in Italia è sempre difficile per quanto è vario il nostro paese. E, però, come dicevate voi, concentrandoci sui primi 15 capoluoghi italiani, dove ci sono anche le università più importanti, una media ci dice che una stanza singola in affitto costa 380 euro al mese, per la soluzione più economica, quella in doppia o in tripla e così via, costa mediamente 270 euro al mese. Quindi prezzi più o meno stabili rispetto al passato, però è cresciuto il mercato stesso. Certo. Facendo una classifica delle città più care di quelle meno care, che cosa si scopre? Qui le notizie dolenti sono sempre le stesse. Milano e Roma guidano la nostra classifica. E Milano, allora, il prezzo medio è da 430 a 440 euro per la stanza singola. Indubbiamente su Milano c'è stato anche l'effetto di Expo, non tanto come locazione di brevissimo periodo, ma per gli stessi lavoratori che sono confluiti su Expo. Segue Roma, dove mediamente una singola costa 415-420 euro al mese. E ovviamente, se poi scegliessi le zone più amate dai giovani, no, per Milano i Navigli, piuttosto vicino ai poli studenteschi, il costo sale molto. Milano, per dare un'idea, può arrivare anche a 580-600 euro al mese, un affitto di un appartamento. E Roma? E Roma sfiora 500-520. Ovviamente Roma è una città più vasta, più dispersa e quindi permette meno concentrazione della domanda. Andiamo a Firenze e Bologna, altre due città con una vocazione universitaria notevole, Bologna soprattutto. Sì, e infatti esattamente come dite voi, no? Più c'è interesse, più c'è domanda, più il prezzo rimane sostenuto. In proporzione molto meno rispetto a Milano e Roma, però 365 euro al mese per Firenze e Bologna 330-340 euro al mese. È arrivato già il momento della nostra prima pausa per ascoltare il traffico. Allora cercheremo di capire, dopo questa analisi delle grandi città universitarie italiane, se scegliendo una piccola città universitaria si può arrivare a risparmiare qualcosa facendo studiare i propri figli appunto fuori sede. Ma adesso il tema è che tipo di contratto d'affitto stipuliamo, perché qua si apre quella che abbiamo definito davvero una giungla, che è proprio un po' una grande preoccupazione per le famiglie all'ascolto. 800 24 00 24, se avete una testimonianza subito da metterci a disposizione, da raccontare, da condividere con noi, oppure consigli da darci. Brava, esatto. Se ci siete già passati. Esatto, negli anni precedenti, potete utilizzare anche il numero per gli SMS, che è il 349 238 6666. A tra pochissimo. Denari. Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia, e la mattina sei giochina sulla scrivania, e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto. I soldi per pagare l'affitto te li manda papà. Esatto, proprio così. Torniamo insieme per la nostra pagina di Denari. Stiamo parlando degli affitti per gli studenti fuori sede. Voi continuate ad animare il nostro numero verde 800 24 00 24. Siamo ritornati in diretta, siamo ritornate in questo nuovo orario, Nicoletta. Magari precisiamolo più volte per non confondere i nostri ascoltatori. Certo, Cuore Denari parte alle 10.30 e vi terrà compagnia sino alle 12. Allora, se nella vostra famiglia siete alla ricerca di una casa o di una stanza, in quale città, se l'avete da poco trovata, quanto costa, quanto siete disposti a spendere, e quale è invece l'offerta che trovate sul mercato, insomma l'incrocio fra domanda e offerta, come sta avvenendo, quali sono le principali criticità con cui vi state confrontando. Ci ha fatto un punto della situazione Carlo Giordano, amministratore delegato di immobiliare.it. Dopo Milano, Roma, Bologna, Firenze, le grandi città universitarie, nelle piccole la situazione dei prezzi, Giordano, qual è? Io, per esempio, citiamo Catania, dove l'affitto di una stanza singola è stabilmente sotto i 200 euro. Torino, per avere. Allora Giordano, abbiamo qualche difficoltà con il collegamento telefonico e con la qualità. Ecco, e a proposito di località più piccole, di città più piccole, un'ascoltatrice, Antonella, ci scrive: mia figlia studia a Foggia, una bella stanza singola con contratto regolare a 200 euro al mese, compreso le spese. Certo, e invece un altro ascoltatore segnala che paga 600 euro una camera, zona Parco Sempione a Milano, appartamento da 4 camere, contratto regolare. Tema contratto, Alberto Campagna. Paella, lo abbiamo già presentato prima, è il coordinatore nazionale di Link, sindacato studentesco. Oltre alle battaglie universitarie si fa anche questa, no? Alberto, quella che cerca di monitorare da parte appunto del movimento studentesco un po' in che condizioni si trovano gli studenti quando devono spostarsi, trasferirsi dalla propria città d'origine alla città universitaria. Un'avventura che voi chiaramente come studenti aspettate con grande intensità, poi ci si scontra qualche volta anche con questa giungla. Ho fatto bene a definirla così, quella del mercato degli affitti, Alberto? Ti chiedo un commento sui dati che abbiamo sentito e poi dimmi cosa ne pensi. I dati sono disarmanti e purtroppo la tendenza negli ultimi anni non si è arrestata. E purtroppo il mercato immobiliare, nonostante non viviamo un momento di crisi economica, il mercato immobiliare, quantomeno per ciò che riguarda la locazione degli studenti fuori sede, è un mercato che non sembra restarsi sul piano dei prezzi. Devo dire una cosa però di carattere generale, ho un ritorno, è normale? Questa mattina abbiamo cambiato orario della trasmissione, Alberto, evidentemente si sono ribellati anche i collegamenti telefonici. Magari proviamo a ripristinarlo anche con te. Adesso vediamo se riusciamo magari a completare questa tua prima parte dell'analisi. Io mi sento benissimo, era solo. Aggiungo però un elemento anche di carattere generale, che la questione degli affitti del mercato immobiliare è strettamente connessa ad un'altra questione su cui non voglio aprire un altro tema, però che i nostri ascoltatori devono sapere, è legata alla questione degli alloggi studenteschi dati dalle aziende regionali e dalle regioni. Cioè il fatto che oggi in Italia ci sia una scarsissima propensione, una scarsissima possibilità per gli studenti di poter alloggiare in quelle che sono gli alloggi previsti per gli studenti fuori sede dalle aziende regionali, perché c'è un disinvestimento nel settore del diritto allo studio, fa sì che inevitabilmente uno deve, diciamo, necessariamente rivolgersi al mercato privato, certo, e quindi affittare la stanza. Alberto, le città che mettono a disposizione queste residenze universitarie, quanto fanno risparmiare mediamente alle famiglie? Che costi hanno queste disponibilità di alloggi? Allora, se noi le disponibilità di alloggi in Italia solamente il 3% degli studenti italiani usufruisce degli alloggi. Tra gli studenti idonei alla borsa di studio di servizi di diritto allo studio, circa 40.000 persone che dovrebbero usufruire di questo diritto non usufruiscono. Quella figura che in Italia chiamiamo idonei non beneficiari, cioè chi ha il diritto ma non usufruisce. Non ne usufruisce perché non ci sono gli alloggi disponibili? Perché non sono gli alloggi disponibili, perché negli ultimi anni tutti i governi sono succeduti hanno costituito un meccanismo di disinvestimento su questo settore. Se guardiamo alcune regioni in particolare maggiormente virtuose, penso alla Toscana, lì vediamo come, nonostante il costo della vita sia più alto mediamente di altre regioni, comunque il costo degli affitti, penso a una città come Pisa eccetera eccetera, riesce comunque a tenersi comunque sul livello comunque alto, ma meno rispetto ad altre città pure più piccole. Benissimo, allora abbiamo richiamato anche l'attenzione generale su questo aspetto. Alberto, abbiamo capito il senso della tua considerazione, te ne ringraziamo. Volevo però andare proprio al tema che abbiamo scelto di approfondire questa mattina, che è quello delle locazioni per gli studenti fuori sede. Voi siete talmente sensibili necessariamente su questo argomento che avete voluto scrivere una guida all'abitare. Intanto, dove la troviamo? Come mai vi è venuta questa idea? Anche se ovviamente la risposta ci sembra scontata, però forse era il caso di mettere in mano. Ce n'era bisogno. Ecco. Esatto, no? C'era bisogno proprio di mettere nero su bianco un bel documento. Allora, trovate sul nostro sito www.coordinamentouniversitario.it. La nostra guida all'abitare è una guida che aggiorniamo negli anni in base anche ovviamente alle novità legislative che ogni tanto si inserisce il legislatore. La guida ovviamente ha una funzione, è quella di provare, noi inizio anno, ora ci sono le immatricolazioni all'università, di andare nelle università degli studenti per dire: guardate che ci sono alcuni diritti, sono questi, perché gli studenti e le famiglie non conoscono, infatti sono contento di questo vostro programma, non conoscono il fatto che esistono i diritti che il legislatore prevede, pochi, ma quei pochi non sono conosciuti, affinché volare uno nella necessità dell'assicurazione di un contratto, cosa non scontata, perché come dice l'indagine scuola.net, uno su sette non ha un contratto regolare, ma per chi fa un contratto ci sono dei diritti e ci sono anche varie tipologie di contratto, alcune maggiormente che avvantaggiano gli studenti, altre che invece non avvantaggiano. Noi proviamo in questa guida a dare degli strumenti alle persone. Bravo. Per conoscere questa realtà. Dei diritti, Alberto, ci sono naturalmente anche dei doveri, ti faccio subito sentire un po' cosa ne pensano i proprietari di abitazioni che vorrebbero approfittare di questo mercato che sembra piuttosto fiorente, ma qualche volta anche loro si scontrano con delle disavventure. Senti, intanto Marco mi sta segnalando naturalmente e Isotta ci stanno segnalando che stanno condividendo la guida all'abitare del coordinamento studentesco appunto sui nostri social, per cui andatela a scaricare perché è molto interessante e molto chiara. Sentirei Michelangelo da Milano. Michelangelo, buongiorno. Buongiorno e ben rientrate. Grazie. Grazie. Buongiorno e complimenti ancora per la trasmissione, vi seguo regolarmente. No, io volevo. Allora, sono un proprietario di casa, un piccolo appartamento, e adesso necessito ovviamente di affittarlo per ovviamente ragioni economiche. La domanda che io mi pongo è questa: c'è un grado. Io volevo capire quale è il grado di insolvenza per gli affitti, perché il problema dei proprietari è proprio che una volta firmato il contratto Molto spesso, anche se la legislazione è migliorata moltissimo, però molto spesso dopo 3 mesi, come dire, il condomino o chi è dentro l'affittuario sostanzialmente ritardi i pagamenti, eccetera. Allora, quindi il problema di noi, perché anch'io ho vissuto in affitto e vivo in affitto, è proprio quello, in questo caso viceversa, cioè di capire quanto è il grado di insolvenza da parte di questo mercato, che è molto interessante, degli studenti. Ma lei voleva sapere qual è il grado, ecco, di insolvenza fra la popolazione studentesca in termini generali. Adesso non so se grazie. Visto che il tema è proprio gli studenti. Esatto, grazie, qua. Michelangelo. Allora, abbiamo un minuto di tempo prima della pausa per il giornale radio delle 11. Giordano, disponiamo di un dato di questo tipo? È difficile. Sì, difficile formularlo. È difficile formularlo, però in generale per i proprietari il rischio di morosità sull'affitto delle stanze e coabitazioni a valore è molto più basso che non l'affitto dell'intero appartamento. E c'è un tema facile, è di diversificazione del rischio. E nel momento che tu nella casa hai 3 o 4, 2 inquilini, se uno diventa moroso, indirettamente l'altro ne è anche responsabile. E quindi di conseguenza questo porta a ridurre generalmente la morosità. Poi aggiungo altri due temi: tipicamente lo studente fuori sede è il genitore che paga e il genitore non fa andare in difficoltà al figlio, quindi dico normalmente è proprio meno rischioso, certo, nella difficoltà economica di questo paese, però meno rischioso affittare per stanze che non affittare intero appartamento. Grazie. Allora, adesso magari su questo tema faccio sentire anche la considerazione degli studenti. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa e cosa risponderebbe Alberto di fronte a queste perplessità dei proprietari. Alberto Campaila, del coordinamento studentesco di Lille, il coordinatore nazionale di questo movimento. Nel frattempo è arrivata già l'ora del giornale radio. Sì, dobbiamo andare, diamo la linea al nostro giornale radio, ma ritorniamo subito dopo insieme con le vostre telefonate, le vostre esperienze. 800 24 00 24, tra poco con Cristina da Verona. Cuore e denari. Sorridete anche voi, forza, perché i benefici sono assicurati: riduzione dello stress, potenziamento delle difese immunitarie e cuore più felice, senza contare che chi sorride attira giudizi positivi e risulta anche più affascinanti, è la ricerca a dirlo. Addirittura scrivono i ricercatori che chi sorride conquista. Insomma, fatevi due conti e vedete voi. E allora oggi, già che sorridiamo, proviamo a fare una valutazione del nostro sorriso. Controlliamo anche denti, gengive, lingua e labbra. Andate davanti allo specchio, fermi e seri, osservate la linea del vostro sorriso: è dritta, curva in giù, leggermente in su, segnate e chiamate. Adesso sorridete e guardate se esponete di più i denti superiori o inferiori e di quanto. State lì, ditemi se vedete anche le gengive mentre sorridete, date anche un occhio al colore. 800 24 00 24. Di tutte queste informazioni le consiglierete tra poco al nostro esperto. Ragazzi, sono 2 anni che si vive tutti insieme. Si è dato 3 esami in 4. Anche te, Pino, scusa, visto che siamo a dirsene. Sono 4 mesi, non tutti rifai il letto. Lo so, tu fai veramente schifo. Ma perché lui è un artista, capito? È uno che vive nel mondo dell'arte, crea. Tanto poi i piatti chi li lava? Ma sempre con questi discorsi da serva, sei noioso, sai. Quando siamo entrati, gli accordi erano ben diversi, ricordate? La cassa comune, la spesa, una volta per uno, la pulizia del cesso. Poi l'unico che pulisce sono io. E anche per questi motivi la convivenza è difficile. Qualche volta magari il proprietario di un'abitazione ci pensa non una, non due, ma una decina di volte prima di affittare la casa agli studenti. Poi non sono tutti così, sono naturalmente tutti ragazzi ben educati, e però il tema è invece l'insolvenza, e come avete sentito c'è qualche proprietario preoccupato per questo motivo. Allora, qualche minuto ancora insieme per parlare degli affitti per gli studenti fuori sede. Voi continuate a raccontarci all'80024 0024 0024, se nella vostra famiglia siete alla ricerca di una casa, di una stanza, in quale città, se l'avete trovata, quanto costa, quanto siete disposti a spendere. Qua le telefonate che stanno arrivando per la maggiore sono invece da parte di proprietari che sono un po' preoccupati, no, nel avventurarsi in questo mercato. Allora, volevo sentire, l'ho già ricordato prima, Alberto Campailla, coordinatore nazionale di Link, sindacato studentesco, a cui vorrei chiedere un commento invece proprio su queste preoccupazioni manifestate dai proprietari, no? Alberto, ci stanno anche queste naturalmente, perché poi voi siete naturalmente tutti assolutamente bravi ragazzi, ci sono alle spalle di molti ragazzi mamme e papà che naturalmente hanno tutto l'interesse a mantenere un rapporto corretto con il proprietario della casa presso la quale prendono una stanza o addirittura tutto l'appartamento, però non sempre le cose vanno bene. Che cosa rispondiamo a questi proprietari? No, sicuramente ci saranno questi casi, però io non ho i dati qui, però come tutti sappiamo i casi di sfratti per morosità, per ciò che riguarda gli studenti, sono delle percentuali irrisorie. Cioè, questo perché? Perché evidentemente, come diceva prima Carlo Giordano, molto più difficilmente, non che questa cosa non avvenga, ma più difficilmente una famiglia che manda il figlio a studiare fuori è disposta quantomeno a lasciare il figlio allo sbando e alla possibilità che venga sfrattato dall'abitazione. Io questo per dire che io sarei attento, come dire, a mettere sullo stesso piano le problematiche che ci sono su questo campo. Certo. Cioè, io, nel senso, parliamo di cose diverse, non dico che non esiste oggi un problema oggi di morosità, no? che genera poi anche casi di sfratto, eccetera eccetera, che mette ovviamente in delle condizioni il proprietario non sempre felici. Però attenzione, che questa cosa riguarda gli studenti, mi sembra veramente, sicuramente non il primo dei nostri problemi. No, il problema più diffuso è quello dell'evasione, quello del nero, il grande traffico anche che c'è molto spesso all'interno degli appartamenti fra studenti che magari si subaffittano fra di loro le stanze, no Nicoletta? Ecco, questo è anche un altro tema che ci stanno segnalando tanti ascoltatori al 349-238-6666. Cristina da Verona, buongiorno, lei ha risolto diversamente questo problema, è andata dritta. Buongiorno, cosa ha fatto? Allora, io in realtà avevo cercato un appartamento in affitto per mio figlio e mi venivano proposte cifre assurde che andavano un tanto a testa che avrebbe abitato l'appartamento, il contratto sarebbe stato intestato comunque a una sola persona. Sì. E quindi anche le detrazioni possibili diventavano difficoltose in ogni caso. Oltretutto spesso erano impianti non a norma, cioè situazioni per un prezzo accettabile, diciamo, veramente. È vero, si vede di tutto anche nella qualità degli immobili, è vero. Esatto, per cui avendo la possibilità di investire ho detto io ti compro l'appartamento e lo dividerai tu con qualche amico. E così ho fatto. Il problema è stato affittare a un compagno, perché mi hanno detto che i contratti d'affitto per stanze non sono più possibili. Cristina, grazie. Vorrei sentire Alberto Campailla se affrontano anche questo aspetto nella loro guida. Alberto. Sì. Sicuramente affittare un appartamento è la cosa migliore. Anche la cosa migliore per ovviamente il proprietario, perché c'è una responsabilità in solido, perché ovviamente come dicevamo prima è chiaro che nel caso in cui qualcuno non paghi oppure lasci la stanza eccetera eccetera, c'è una responsabilità solidale degli inquilini, quindi è evidente, nel senso che questo è un caso. Nel caso in cui si affitti una stanza questa cosa qua viene meno, quindi ovviamente va tenuto di conto. È chiaro che però per ciò che riguarda lo studente e affittare l'appartamento è un elemento di garanzia, ma lo è anche sul piano, non solo sul piano contrattuale, lo è anche sul piano ovviamente dell'ammontare complessivo, perché ti dà una possibilità di contrattare maggiore rispetto all'affitto della singola stanza, quindi questo sicuramente è un caso, sì. Allora, intanto noi non riusciamo a sentire Maria Vittoria da Roma, che ci voleva raccontare che dispone di una stanza in un appartamento comodo, vorrebbe offrirla ad una ragazza studentessa in cambio di compagnia e piccoli servizi. Esiste anche questa possibilità anche a Milano, è molto gettonata questa disponibilità appunto di alloggi in cambio di qualche piccolo servizio per per i proprietari. Carlo Giordano, volevo concludere con lei, abbiamo 30 secondi di tempo, la rosa delle raccomandazioni da fare in questo caso sarebbe lunghissima, ma non siamo riusciti ad affrontare la questione dei giovani lavoratori, no? Che mi sta molto a cuore. Esatto. Dico solo questo. Magari facciamoci una puntata prima... insomma, al più presto. Giordano, insomma, che cosa possiamo raccomandare allora a mamma e papà all'ascolto? Preoccupate perché sono alla ricerca della casa in questo momento, magari l'hanno trovata, magari sul tema dell'affitto della singola stanza, senza doversi impegnare con tutti gli altri occupanti l'abitazione. Come si può superare questo problema? È un tema, l'avete toccato voi, no? Ci sono oggi, è cresciuto molto l'offerta di proprietari che affittano una stanza nell'appartamento in cui vivono. E che tipicamente è una soluzione che rassicura molti genitori, perché non è tre ragazzi e quattro ragazzi insieme in una stanza, ma suo figlio legato a un'altra famiglia, quindi con i ritmi della famiglia. È un fenomeno che è cresciuto negli ultimi 5 anni, oggi quasi il 12% certo. dell'offerta delle stanze viene. Ma l'ascoltatrice che ha chiamato poco fa, che ha detto: io ho superato tutto, io mi sono comprata, ho comprato direttamente casa a mio figlio, adesso però per condividere le spese vorrebbe lui a sua volta affittare una stanza ad un altro amico. Secondo lei la cosa regolare da fare quale potrebbe essere? Beh, ma esistono contratti dove tu definisci che la parte locata è una parte dell'immobile. Il tema vero è che sovente la vera evasione, il vero nero viene fatto che viene affittata una stanza a contratto e tutte le altre non lo sono. Ecco. E lì nasce la sublocazione degli studenti. Suggeriamo magari a questa ascoltatrice di andare al SUNIA, che è il sindacato degli inquilini. A Verona ci sarà certamente anche una filiale di questo sindacato. Grazie a Carlo Giordano e ad Alberto Campailla per essere stati con noi. Potete andare sul nostro profilo Facebook a leggervi tutta la guida appunto per una locazione corretta. E adesso sorridete, sì. Lo diciamo anche ad Alberto Campaile e a Carlo Giordano, certo. Fatevi un selfie e lo postate sulla nostra pagina Facebook, perché vogliamo contagiarci sui benefici del sorriso. Sì, adesso che cosa abbiamo? Una pausa? Sì, adesso abbiamo, vedi? Eccola qua. Per avere labbra attraenti, pronuncia parole gentili. Per avere uno sguardo amorevole, cerca il lato buono delle persone. Audrey Hepburn. E questa frase della bellissima Audrey ci porta al secondo tema di Cuore Denari. Parliamo del sorriso. Le labbra con le parole gentili diventano attraenti, e sappiamo bene che il sorriso insieme allo sguardo è il nostro biglietto da visita. Qui in studio con noi, pronto, ha già fatto un po' di stretching, è pronto, ha sorriso anche lui. Abbiamo il piacere di avere il professor Luca Levrini, odontoiatra e docente di ruolo all'Università degli Studi dell'Insubria. Buongiorno professore. Buongiorno. Professore, con lei naturalmente parleremo di sorriso da un'altra prospettiva, ma sempre legata al nostro benessere. Ho già accennato ai vantaggi del sorriso per il nostro umore, la nostra salute e le nostre relazioni. Aggiungerei che sorridere ci rende anche belli e ci fa rimanere giovani. Certamente, il sorriso è una magia espressiva e comunicativa. Sorridiamo tantissime volte al giorno, circa 60, più le donne rispetto agli uomini. I bambini sorridono molto di più, sorridono fino a 300-400 volte al giorno, sono praticamente sempre sul sorriso. Una cosa interessante è capire quando incontriamo una persona. Quando incontriamo una persona non ci rendiamo conto, ma stringiamo la mano e sorridiamo contemporaneamente. È utile però fare una differenziazione tra questi due momenti. Il stringere la mano è volontario, io ci penso e gliela stringo la mano. Certo. Il sorridere invece è involontario, un atto assolutamente che viene spontaneo, viene dal di dentro. E questa cosa è importante, perché poi io mi auguro... cercheremo di parlare, di capire quando un sorriso è vero e quando un sorriso è falso. Diciamo subito, e tu l'hai detto, che il sorriso non è solo labbra e denti, ma in realtà è anche sguardo, è anche occhi, di fatto è un complesso armonioso del certo. viso. E è bello ricordare, scusa, un neologismo, una parola nuova che ha introdotto la nota Tyra Banks, questa modella americana, che è smiles, cioè smile, sorrisi, ma anche eyes, occhi, amplificare questo concetto. E sarà importante saperla questa cosa, cioè che quando uno sorride bisogna anche guardare gli occhi, perché è proprio dagli occhi che vedo se uno è sincero è vero, o non è oppure sincero, un po' non è sincero. Finto, vero, perché ci sono gli occhi che sorridono, sì. A volte è più delle labbra. Esatto, perché le labbra possono sorridere e tu lo stai facendo fare ai nostri ascoltatori tranquillamente, però gli occhi non riescono a sorridere se il sorriso è spontaneo, quindi è proprio lì che noi dovremo andare a vedere se vogliamo capire se uno, quando lo incontro, è sincero, una propria manifestazione umoralmente positiva o meno, ecco. 800 24 00 24, andate a postare il vostro sorriso sulla nostra pagina Facebook, ma intanto chiamateci, diteci ad esempio se voi sapete riconoscere un sorriso vero da uno finto, fasullo. Certo. Professor Lebrini, io però ho invitato, tanto che lei non c'era ancora, ma io ho invitato i nostri ascoltatori a fare una sorta di autotest per valutare il proprio sorriso. Lei naturalmente ci deve aiutare e iniziamo dalla posizione base. Senta se abbiamo fatto giusto. Abbiamo detto seri, adesso mi viene da ridere, insomma a bocca chiusa davanti allo specchio. Notiamo la linea della nostra bocca. La linea quindi che tra le due labbra, no? È dritta, è curva leggermente in su oppure curva leggermente in giù? Professor Lebrini, quali informazioni possiamo raccogliere dalla linea della nostra bocca che è quella tra le due labbra? Dunque, innanzitutto bisogna distinguere tra la scienza e la moda. Io per moda mi riferirei a quei parti che vanno tanto in voga adesso in America, soprattutto anche qua femminili, nei quali si entra, si bacia un cartoncino e ci sono degli specialisti che leggono dalla forma delle labbra, da questa linea, che tipo di personalità ha la persona. Tipo, un po' lombrosiana, un no? po' lombrosiana, ma sì, fenomenologica. Ti è mai capitato? No, con questa ancora non mi è capitata, ma appena succederà bisogna portarsi sempre il rossetto ad un party in America. Certo, assolutamente sì, d'altronde sono prevalentemente femminili, certo, questi party. E da qui alcuni vanno a dire che nel momento in cui le labbra sono chiuse c'è rigidità, c'è concretezza, nel momento in cui il labbro inferiore è carnoso c'è invece più generosità e disponibilità. Insomma, questa cosa io la lascerei un attimo alla moda. Capisco che queste interpretazioni facciano un po' rizzare i capelli in testa. Circa la scienza invece bisogna partire subito con una chiara distinzione tra cosa intendi tu per rilassato, perché di fatto non è vero che quando uno è rilassato tiene le labbra chiuse. Normalmente da rilassato le labbra non dovrebbero essere chiuse, anzi andare a esporre un pochino gli incisivi dovrebbero vedersi a riposo, quei 2-3 mm, sì, cosa molto accattivante nelle donne, è un po' molto bello, giovanile. È un po' come si dice il suo bello, adesso il nostro ascoltatore ci scriverà, attenzione all'italiano. Quindi le labbra devono essere leggermente separate e far vedere possibilmente gli incisivi superiori. Nel momento in cui fanno vedere gli incisivi superiori è molto attrattiva come cosa. Ma a parte il fascino, quando noi mostriamo i denti superiori, sì, bisogna anche calcolare di quanto, no? Se mostriamo, certo, più i denti superiori, i denti inferiori quando sorridiamo. Fai così. No, io la boccuccia da coniglio. No, belli. Professor Lebrini, sì, allora, che cosa ci dice questa informazione sulla salute della nostra bocca? Perché questo autotest ha un obiettivo, capire un pochino com'è la salute del nostro sorriso, e che abbiamo detto non sono solamente le labbra, ma sono i denti, le gengive, arriveremo anche alla lingua, alle mucose che molti ascoltatori, esatto, già ci scrivono che vengono, esatto, mordicchiate. Esatto, stiamo passando da una posizione di riposo a una posizione di sorriso. Nel momento in cui sorridiamo noi iniziamo a far vedere i denti. Sì. E quali denti innanzitutto? Superiori o inferiori? L'ideale sarebbe assolutamente gli incisivi superiori, perché nel momento in cui una persona sorride fa vedere anche un po' gli incisivi inferiori, significa che il volto ha perso tonicità. Sta, e quindi si fanno vedere, vero, un po' gli incisivi inferiori. Esatto. Ecco, la discesa. L'ultima domanda che ho posto ai nostri ascoltatori è il numero di denti sfoderati durante il sorriso. Un sorriso normale, non una risata crepapelle. Certo. Che cosa ci dice il numero di denti che mostriamo? Tantissimi, nel senso devo farne vedere il più possibile, non classicamente i 4 incisivi superiori ai canini, ma addirittura è bello avere, far vedere anche i premolari. Più denti si vedono, meno tecnicamente chiamato corridoio buccale, quindi il buco che c'è tra i denti laterali e il margine della bocca si vede. Quindi la bocca deve essere larghissima, far vedere fino ai premolari. Allora, intanto 800 24 00 24, tu stai pensando al party americano, quello del rossetto, quello del bacetto sul cartoncino, ti sarebbe piaciuto? Ma sì, perché sono stata negli Stati Uniti e non mi ha invitato nessuno ad un party di questo genere, ero già pronta lì con lucida labbra. Guarda, noi adesso ci appena il professor Levrini ha finito, a mezzogiorno, ci diamo il rossetto e ce lo facciamo noi, un piccolo parto. Ce lo facciamo fare da lui. L'ipsologia. Allora, restate con noi, siete pronti a raccogliere, a darci altre informazioni sul vostro sorriso? Ad esempio, diteci se i vostri denti sono affollati o invece distanziati, se i vostri incisivi superiori centrali vi paiono più lunghi dei denti adiacenti, se sporgono, se protrudono. Professor Levrini, ci sono dei dettagli che un occhio clinico può cogliere che possono aiutare a fare diagnosi? Quale altre indicazioni abbiamo bisogno dei nostri amici da casa? Sicuramente molte cose possiamo vedere da un sorriso. Prima ho accennato al far vedere gli incisivi superiori. Gli incisivi superiori che devono avere dei margini che non devono essere necessariamente allineati. È giusto che il margine degli incisivi centrali, cioè quelli grossi che si vedono subito di primo impatto, abbiano il margine allo stesso livello. Gli incisivi laterali che sono di fianco dovrebbero essere invece un pochino più in cortini. Su. Questo perché fa risaltare gli incisivi centrali che sono importanti nel dare giovinezza al nostro paziente, ascoltatore che sia. L'altra cosa interessante è che nel momento in cui una persona sorride, gli incisivi e i canini formano un arco, un arco che più è pronunciato più è giovanile è, ma soprattutto, e quindi non deve essere piatto, perché se è piatto è assolutamente vecchieggiante, e questo arco deve poggiare sul labbro inferiore come se fosse un arco parallelo e contrapposto. È un po' come un sorriso. È un po' come un sorriso, certo. Assolutamente. Allora, intanto abbiamo i nostri amici che ci stanno chiamando, 800 24 00 24. Deborah, dove andiamo? Direi di cominciare con una bella gita a Como. Andiamo a trovare Simone, che salutiamo, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa? Sì. Spero di non uscire fuori tema, nel senso che dopo aver ammirato le rimettiamo subito in riga, Simone. Sì, ecco, dopo aver ammirato il mio sorriso non propriamente perfetto, mi è sorta subito una curiosità. Io ho due bimbi e come tutti i bambini finché hanno i denti da latte vedo che hanno delle dentature perfette. Ecco, il fatto che poi nel passaggio ai definitivi ci siano più o meno problemi, volevo capire se c'era qualcosa di fisiologico, cioè come mai questo passaggio critico, ecco. Professor Levrini. Allora, si può dire che i denti da latte dell'arcata superiore sono tutti più piccoli rispetto ai denti permanenti. Quindi è evidente che se il mascellare superiore, l'osso che accoglie tutti i denti, non cresce, non si sviluppa correttamente, nel momento in cui vado a sostituire i denti da latte con quelli permanenti, questi non ci stanno e sono affollati. Il discorso vale un pochino meno inferiormente, perché i premolari in realtà permanenti sono più piccoli dei molaretti da latte. Circa l'affollamento e quindi l'impossibilità dei denti che stiano sulla quando stessa arcata. Quando si dice ha una boccata di denti, sembra che siano tutti insieme. Riferisco proprio ai bambini. Spesso le mamme si allarmano quando il primo dente permanente è nell'arcata inferiore e rompe verso la lingua, al di dietro dei denti da latte. Questa cosa è una cosa quasi normale, perché il dente ha solo non lì... Non stanno diventando dei pesci cani. No, assolutamente. O topi. Mi si sta trasformando. Il pupo. Lì deve crescere perché lì c'è l'osso, poi piano piano la lingua lo sposterà verso l'avanti. Quindi è importante che l'osso cresca bene, perché sennò i denti non ci stanno e non si abbiamo parlato di bambini, quando iniziare a fare controllare i bambini dallo specialista? Dipende molto dal pediatra. Se il pediatra ha la capacità di visitarlo lui e capire se ci sono dei problemi e soprattutto dare tutte le nozioni preventive del caso, il pediatra lo può vedere tranquillamente fino ai 6 anni. È necessario vedere il bambino anticipatamente verso i 3-4 anni, quindi bisogna capire se il pediatra lo guarda in bocca o non lo guardi in bocca, soprattutto anche per dargli tutte le misure preventive, fluoro, non fluoro, spazzolino. Allora, abbiamo parlato di denti dei bambini, di denti affollati, di denti distanziati. Intanto vi anticipo che parleremo anche di colore dei nostri denti, di sensibilità al caldo, al freddo e delle gengive che spesso sanguinano, si arrossano. Prendetevene a cuore, perché c'è una relazione molto stretta, lo sottolineiamo sempre, diventa quasi un tormentone. Professor Levrini, tra la salute parte della nostra bocca è quella dell'apparato cardiovascolare. Certo. È così? Assolutamente sì, perché nel momento in cui si innesca nella bocca, in particolare nelle gengive, un'infiammazione, si aprono delle sorte di porte, delle finestre dove tutti i batteri che sono in bocca vanno in realtà nel circolo ematico e ovviamente vanno a creare dei processi infiammatori lontano, in particolare in tutto il circolo ematico, dando un'esposizione maggiore a rischio. Ecco, quindi attenzione quando abbiamo le gengive che sanguinano, le gengive gonfie, arrossate, il problema non si ferma solamente lì, anche il nostro cuore potrebbe soffrirne, quindi sì. Ancora regole di igiene, controlli, colore dei denti, eventuali sbiancamento, la sensibilità, le gengive che si ritirano, il colletto che è molto sensibile, 800 24 00 24 e attenzione, se adesso state masticando qualche cosa, cercate di capire se solitamente masticate da una parte sola o invece avete la buona abitudine di masticare da entrambi i lati, perché il modo in cui mastichiamo dice molto della salute della nostra bocca, oltre che ci aiuta anche, come dicevano le nostre nonne, no? A preparare una buona digestione. La prima digestione, certo, viene in bocca. Adesso noi però andiamo, adesso in tutti questi, sì, cambiamenti, dove andiamo? Qua c'è un appuntamento fisso che non è per niente cambiato, cara mia, perché la borsa chiama e allora noi andiamo a raccontarvi cosa sta succedendo in questa giornata finanziaria tra pochissimo. Cuore e denari. Smetta, cameriera! Smettete di ridere, no, io direi, no, ridiamo almeno, sorridiamo, soprattutto sì. Al lunedì noi dovremo augurarci di ricevere una dose supplementare di sorrisi e naturalmente dovremmo essere pronti a regalarne qualcuno in più anche noi. Uno, regalatelo a noi, fatevi un selfie e mandatecelo, andate sulla pagina di Cuore Denari, poi lo faremo anche io e Deborah. Giuseppina da Modena ce l'ha mandato. Brava. A cuoredenari@radio24.it, una nostra grandissima ascoltatrice ed è anche una gran bella donna, per cui la salutiamo doppiamente. E noi la ringrazieremo con un libro, che dici? Sì, sì, dai. Sono disponibile. Allora, 800 24 00 24, noi abbiamo un esperto qui in studio con noi, il professor Luca Leverini, odontoiatra, docente di ruolo dell'Università degli Studi dell'Insubria. Vi abbiamo guidati in questa sorta di autotest per valutare il vostro sorriso. Io direi che a questo punto avete tutte le informazioni e le indicazioni per chiamare il nostro numero verde e per giocare un po' al medico risponde, 800 24 00 24 per tutte le indicazioni che volete avere dal nostro esperto sulla bocca dei vostri bambini, sulla bocca del vostro compagno, sulla vostra bocca. Inizierei subito a leggere un messaggio di Lina, Deborah, che ci aveva incuriosito. Sono i miei due incisivi centrali superiori, ci scrive Lina. Qua, sì. Sono piuttosto distanziati, cosa che non mi piace, per cui di solito sorrido ma senza mostrare i denti. Beh, si impone anche di non sorridere in maniera completa. Che non le piace lo spazio. Tu ti ricordi che c'era una cantante che si chiamava Giovanna? Sì. Non guarda. Ah, meno che, male. Che aveva questo. Che aveva il diastema. Ma in effetti l'ascoltatrice tocca il punto. Cioè, a me non piace. Bisogna capire innanzitutto se le piace o non le piace. Se non le piace, sarebbe opportuno fare qualcosa. Secondo me anche Vanessa Paradis, ex moglie di Johnny Depp, aveva questa a me conformazione. Piace. No, ad alcuni piace, il problema è che all'ascoltatrice non piace. Ha ragione. È molto soggettivo. Bisogna capire se bisogna chiudere lo spazio e quindi avvicinare due incisivi, oppure i due incisivi sono piccoli e quindi bisogna ingrandirli. Questa valutazione deve essere fatta, ovviamente. Si possono ingrandire con queste famose faccette? O faccetto o corone, dipende dall'entità dell'allargamento che bisogna fare. Di fatto sono due principi opposti che risolvono lo stesso problema, però con cognizione di causa. Quindi piuttosto che sorridere con questo sorriso stretto, assolutamente chiuderlo. Ecco, allora no, si va da un dentista. Veramente, cioè, il problema di quando sorridi, tu stai sempre lì a pensare a questa cosa, pensa che tipo di anche resistenza emotiva per Lina, no? Certo. Non va bene. Non va bene, no. Dai. Allora, avrei una domanda da Cristina, che ci chiama da Vicenza, a cui diamo subito la linea, la salutiamo. Buongiorno Cristina. Voglio però... a voi. Grazie Cristina. Professor Levrini, si ricordi anche lei, perché per me è il mio primo giorno di lavoro, sono un po' più rimbambita del solito, che dobbiamo parlare del fluoro, perché sì, qualcosa è cambiato e voglio che i nostri amici siano informati. Cristina, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Siete bravissime. Buongiorno. Grazie. Professore. Buongiorno. Allora, problema mio, ho 55 anni, dei denti meravigliosi. Il mio dentista mi dice che sono un castello senza fondamenta, nel senso che io ho le gengive inesistenti, proprio si stanno ritirando e lui mi dice che non c'è rimedio. Volevo sapere dal professore se devo preoccuparmi. Allora, dunque, bisogna quando si ritraggono le gengive, si ritraggono perché c'è un processo infiammatorio che le fa ritrarre. E purtroppo le gengive sono come il tessuto nervoso, una volta perse non ricresceranno mai, mai. La sua situazione è una situazione avanzata e quindi da oggi bisogna fare in modo che quello che c'è non peggiori, ovviamente. Si può fare però. Assolutamente sì, bisogna fare in modo che ci sia uno stretto controllo sia dell'igiene a casa domiciliare sia di quella professionale fatta dal suo professionista, che forse ha già gettato un pochino la spugna. È chiaro, adesso pensare al passato e recriminare quello che non è stato fatto non serve a niente. Guardando al futuro, io le suggerirei di mantenere quantomeno questo stato di cose, quindi pulirsi i denti nel modo corretto. Ripetiamo le regole. Le regole sono 2-3 volte al giorno, meglio 3 volte al giorno, dalla gengiva verso il dente, se si utilizza uno spazzolino manuale. Se si utilizza uno spazzolino elettrico, capire qual è lo spazzolino elettrico che si usa, perché lo spazzolino elettrico non bisogna usarlo come uno spazzolino manuale. Ci sono vari spazzolini in commercio, esattamente 2 sostanzialmente, che si differenziano nell'utilizzo, che devono essere usati propriamente. Spazzolino elettrico assolutamente sì, però utilizzato correttamente. Quindi la signora suggerirei... Quindi appoggiato... Se è quello che ruota e oscilla, appoggiato su ogni singolo dente. Se invece è quello che vibra, può essere utilizzato più o meno specularmente rispetto a quello manuale, cioè dalla gengiva verso il dente. Un po' come uno scopetto. La signora sicuramente avrà degli spazi dove non riesce ad arrivare, lì molto deve arrivarci l'odontoiatra o l'igienista dentale, e lei con molta pazienza, con degli scovolini, con del filo interdentale, ogni tanto con della clorexidina che disinfetti. Certo, è un percorso sicuramente importante da farsi da un punto di vista personale, perché l'impegno deve esserci, ma io ritengo che bisogna guardare un po' in modo ottimistico alla cosa. Cioè, non è che bisogna buttare la spugna, no. Sono un po' come dei guantini, no? Le gengive che tengono i nostri denti. Le gengive non tengono i denti, è l'osso sotto che tiene i nostri denti. Lì si parla non di gengivite, ma di parodontite, cioè di infiammazione che interessa il tessuto sotto le gengive. La gengivite, che si vede semplicemente quando sanguinano i denti, è una malattia che regredisce in 3 giorni. Esattamente come un furuncolo, se io intervengo in modo proprio, spazzolando i denti in modo corretto. Anche se mi fa male. Assolutamente. Un po' di dolore, bisogna resistere, perché se così puliamo. Se c'è dolore, l'infiammazione è grave, quindi bisogna usare dei gel con clorexidina o dei collutori con clorexidina per aiutare il processo disinfiammatorio. Ma se uno non spazzola perché ha male, è un gatto che si morde la coda, perché non spazzolando i batteri si aggregano in modo maggiore e il problema si trasforma da gengivite, cioè regredibile in 3 giorni, a riassorbimento della gengiva che non è più per forza di cose riformabile, e purtroppo in parodontite, quindi infiammazione dell'osso sottostante, denti che ballano, denti che si perdono. Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive: ho avuto un po' di parodontite che ora sembra essersi fermata, uso tenere in bocca un chiodo di garofano. Che ne pensa il dottore? Grazie, Tony. Ma il mio sospirare non vuole essere critico, ma ritengo che la scienza oggi ci dia un qualcosina di più che un chiodo di garofano. Quindi questa è una che ma può essere utile per lui. Se lui si sente sicuro a utilizzare il chiodo di carofano, può essere importante come cosa, ma questo non significa abbandonare l'igienorale professionale, che è importante, fondamentale. Allora, abbiamo parlato di gengive, vogliamo parlare anche di denti, in particolare di denti sensibili, ipersensibilità dentinale, un problema che secondo i dati affligge una persona su due. A volte il disturbo diventa molto fastidioso e invalidante. Si previene, professor Levrini, e nel caso come si può affrontare? Servono i dentifrici ad hoc, quelli per denti sensibili, così poi andiamo al fluoro? Certo, dunque bisogna capire perché i denti diventano sensibili. Diventa sensibile sostanzialmente perché si riduce la parte che riveste il dente, che sul dente è lo smalto sostanzialmente. Perché si riduce questa parte di dente? Certo, si riduce per carie se ci sono batteri, questo lo conosciamo, sì. Ma si riduce soprattutto se ci sono dei fenomeni definiti di usura. E perché si usurano i denti? Perché il pH della saliva si abbassa. E quindi alla mia domanda, come facciamo a prevenire la sensibilità dei denti? Dobbiamo fare una dieta alimentare adeguata affinché il pH della saliva non sia sempre basso, perché se è sempre basso il pH della saliva, lo smalto si disgrega, lo smalto si dissolve, lo smalto diventa più piccolo e i denti diventano sensibili. Quindi? Non solo diventano sensibili, ma diventano più gialli, perché più si riduce lo smalto e più io vedo la parte marrone del dente, che è la dentina che sta sotto. E quindi è importante, per prevenire la sensibilità, evitare di alzarsi la mattina, far colazione, dopo due minuti bere il caffè, poi a metà pranzo un altro caffè, poi l'aperitivo e poi il pranzo e poi dopo l'aperitivo, perché ogni volta che io assumo qualcosa per 40 minuti la saliva si dissolve. Quindi devo far colazione. Ma allora lei non mi fa più mangiare, cosa facciamo? Allora ho denti bianchi o sacchi vuoti? No, però la sensibilità c'è e mantiene. Aggiungo una cosa che è importante, questo è vero per lo smalto, per il cemento, e cioè la parte che riveste la radice del dente, vale ancora di più, e cioè la dissoluzione è molto più rapida, perché lo smalto è resistente, il cemento no. Questo è il motivo per cui la sensibilità si riscontra spesso al colletto del dente, cioè quella parte tra smalto e gengiva, dove non c'è smalto, ma c'è cemento. E quindi questo discorso sul pH è un discorso che assolutamente devo considerare ogni volta che io inizio a avere sensibilità ai denti. Io stesso inizio a avere sensibilità al dente, ho iniziato un processo alimentare che mantiene il mio pH a livelli Ma adeguati. Io voglio questa specie di dieta per il pH della saliva, Aggiungiamo, posso aggiungere una cosa, i pazienti che soffrono di reflusso gastroesofageo sono tanti in Italia, lo sappiamo. Altro che tutte le volte che un professor paziente lo sa bene. Tutte le volte che c'è un episodio di reflusso, la bocca diventa acida. E il mio smalto si disgrega. E ancor più il cemento del dente, della radice del dente. Ci sono degli alimenti da evitare e altri da aggiungere? Il caffè l'abbiamo già crocifisso. Già l'aperitivo ce l'ha tolto. Anche adesso gli odontoiatri ci mettono a dieta. Non se ne può più. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Poi ritorniamo subito dopo insieme per salvare lo smalto. Cuore e denari. Di nuovo insieme ci occupiamo di denti, di gengive, del nostro smalto che in qualche modo viene aggredito, tanto che a poco il dente diventa giallo. Quindi, professor Levrini, vuol dire che insomma è un destino un po' che capita a tutti: quando il dente perde di smalto, non è più così bianco e certo, di un colore bello uniforme, vuol dire che questo processo è già in corso. È normale, nel senso che nel tempo il colore del dente tende a diventare più giallognolo. Sì, infatti nelle persone anziane ad esempio è molto più giallognolo, esatto, che non nei bambini. Perché si è perso lo smalto, ecco. La dieta per lo smalto. E stia attento a quello che dice. Ecco, e l'aperitivo ce l'ha tolto, il caffè ce l'ha tolto, adesso ci toglierà anche la spremuta. Alberto mangia un sacco di gomme da masticare. Togliamo prima le gomme ad Alberto, prima del nostro caffè, dottore. Aiuta la gomma da masticare, nel senso che la gomma da masticare, se ha dentro degli zuccheri buoni come lo xilitolo, accelera il viraggio del pH, quindi non sono 40 minuti, ma magari può ridurlo a 30 minuti. Fa qualcosa. Ma se io lavo, aspetto quei 3 o 4 minuti e mi lavo i denti, la saliva torna giusta? Questa è un'altra questione interessante. Esatto. Perché si dice storicamente puliamo i denti subito dopo aver mangiato. E invece c'è chi dice bisognerebbe o aspettare quei 40 minuti o se no spruzzare dei bicarbonati che alzano e virano il pH della saliva a livelli già normali, che sono prossimi quasi al 7. Lei cosa suggerisce di fare? Allora, subito dopo pranzo, noi vogliamo fare quello che ci dice lei. Allora, io mangio una buona colazione al mattino e basta fino a pranzo. Ok, ma dopo la colazione io acqua. Mi lavo i denti? Sì, giusto. Sì, sì, quanto aspetto? Aspetti 40 minuti, mezz'ora, quindi puoi fare colazione fuori, venire in ufficio e poi in ufficio lavarti i denti. Dopo acqua. Solo già stamattina acqua? Ho sbagliato tutto. 40 minuti però sono tanti, perché uno al mattino fa una ricca colazione, ricordate le proteine per risvegliare il metabolismo. Tè non zuccherati. Caffè non zuccherati, meglio. Vabbè, adesso però, dicono ecco, che anche lo zucchero aumenta da ipertensione. Beh, su questo adesso c'è un convegno molto importante di cardiologia, avremo poi i nostri inviati speciali che ci racconteranno. Ma professor Levrini, queste gomme con lo xilitolo, se io la mangio, mi aiuta insomma a ridurre? Quindi, assolutamente sì, perché nel frattempo aspetto e poi mi lavo i denti. Ma certo, assolutamente. Io sto estremizzando un po' per dare il senso logico del concetto. È chiaro che se una persona ogni ora fa un piccolo spuntino, un piccolo snack, mette in crisi il boccone pH da una parte saliva. E lo spazzolino. E già ancora si utilizza dei soft drink, mi riferisco per esempio agli atleti che spesso sorseggiano dei soft drink durante le gare agonistiche. Loro purtroppo per lunghi periodi hanno il pH acido. Mi riferisco per esempio ai nuotatori, chi nuota spesso purtroppo se la piscina non ha delle caratteristiche a norma le trova acide, quindi dà luogo a fenomeni di usura del dente più rapidi rispetto a quelli normali. Ma quante cose non sappiamo? E siamo solamente alla prima puntata di Cuore e Denari delle 10:30. E si possono anche sbiancare volendo, nel senso nel momento in cui una persona nota che il proprio colore dei denti non è più attrattivo, qual è quello che vorrebbe, i denti si possono sbiancare con tecniche che sono varie e sono assolutamente soggettive rispetto alle esigenze e all'età anche del soggetto. I dentifrici che vengono reclamizzati, che avrebbero questo obiettivo, un po' aiutano, dottore? Allora, basta che non siano abrasivi, perché di fatto sennò vanno all'opposto del principio che esplicitavamo prima, cioè qualsiasi sbiancamento sia deve essere uno sbiancamento a tutela dello smalto, perché se io vado a ridurre ulteriormente lo smalto per sbiancare i denti, quindi togliere semplicemente le sostanze che pigmentanti che sono sopra il dente, questo non significa fare sbiancamento, perché lo sbiancamento è un principio biochimico che sbianca il dente dal suo interno, per essere ci più sono chiaro. Dei trattamenti che si possono comprare anche in farmacia, sì. Ecco, e sono meno costosi naturalmente di quelli che si fanno dal dentista. Certo. Avvertenze e indicazioni, chi può utilizzarli, in quali condizioni e dove invece è meglio evitarli, in quali casi? Dal mio punto di vista, nei giovani potrebbero essere delle buone soluzioni, purché i giovani siano comunque seguiti costantemente dall'odontoiatra, non necessariamente per lo sbiancamento. Diversamente, un soggetto adulto che ha delle esigenze di sbiancamento magari un pochino più importanti, è necessario che al consiglio dell'odontoiatra poi si unisca anche lo sbiancamento. Quindi secondo me gli sbiancamenti domiciliari venduti nelle farmacie e nelle farmacie sono ottimi, laddove le esigenze abusarne. Siano basse e comunque non dico sotto controllo odontoiatrico stretto, però ci sono delle situazioni che sono controindicate, per esempio la gengivite, la parodontite è non del tutto indicata in soggetti che utilizzano questi tipi di prodotti. Se poi abbiamo già una sensibilità aumentata, io direi che è meglio magari evitarli il trattamento fai da te. Sì, un consulto con l'odontoiatra, visto che ognuno bene o male una volta all'anno bisogna andare dal dentista o dall'igienista dentale, nulla vieta chiedere un consiglio direttamente a loro. Nella mia situazione posso utilizzare degli strumenti domiciliari da banco per sbancare i denti, sì o no, che tipo di risultato mi danno? A quel punto il professionista esprimerà il proprio parere. Allora qua si sono scatenati perché allora la spremuta battuta di limone senza zucchero. Eccoli là. E invece se il caffè è amaro? E le carote? Allora, circa il limone, io non sono un dietologo, ma so che il limone fa benissimo perché sì, anzi, è un qualcosa c'è questa cura del limone anche, no? Per le persone che soffrono di calcolosi renali. È stato fatto uno studio molto interessante sul limone. Ma non hai mai studiato sempre in vacanza? Che stamattina ci hai riportato un sacco di ricerche. Questa è una notizia un po' vecchietta che avevamo già dato. Ma quindi il limone fa bene, ma lo smalto. A questo punto io dico ok, beviamolo con la cannuccia, così quantomeno superiamo il tratto negativo per poi che ci ha dato una idea intelligente la cannuccia. Però no, assolutamente mordicchiare la fetta di limone davanti alla televisione come faccio piace, io ecco, perché quella... No, io lo faccio qua in redazione con il tuo tè, è vero, con il mio tè al limone senza zucchero. Allora abbiamo a proposito di mordicchiare la mucosa interna della bocca. Sì. Allora, la sollecitazione costante delle mucose sicuramente può in alcuni casi isolato dare fenomeni di non controllo di ricrescita delle mucose, e quindi da quei fenomeni che noi chiamiamo precancerosi, cioè degli stadi che non necessariamente si sviluppano in qualcosa di grave come le neoplasie, però sicuramente possono in qualche percentuale dar luogo a delle complicanze con le neoplasie. Quindi non bisogna mordicchiarsi le labbra, anche in questo caso è suggeribile, siccome bisogna andare dal dentista almeno una volta all'anno. Ecco, se sentite, no, passando la lingua all'interno delle guance, no, sulla parete, dei rilievi, teneteli sotto controllo. Esatto, quindi non mordicchiarsi, perché è l'eccessivo. Poi se uno masticando ci urta dentro, l'odontoiatra magari prenderà degli accorgimenti affinché questo non possa avvenire. Ma andiamo. Allora, sì, no, ma io mi sto chiedendo, la parola magica colluttorio la vogliamo pronunciare o no questa mattina, in questi ultimi minuti che ci separano dal prossimo giornale radio? Perché è difficile sceglierlo, eh? I colluttori dipende se sono con principio medicamentoso o meno. L'unico vero principio medicamentoso nel colluttorio è la clorexidina, che è un antibatterico selettivo del cavo orale, che funziona veramente, ha il grosso difetto che se utilizzato per periodo superiore a una settimana dà delle pigmentazioni. Tutti gli altri colluttori sono sicuramente aiutano, sono utili, però non sono dei farmaci, e quindi il mio suggerimento è di utilizzarli unitamente allo spazzolino da dente, unitamente al filo interdentale, unitamente allo scovolino se gli spazi dai denti sono grandi. Tutte le tre volte al giorno o basta una? Io una la faccio. Allora, le indicazioni sono una volta al giorno. Ah, vabbè, allora vedi che faccio giusto. Bisogna essere anche realisti. Certo, la sera almeno prima di andare a dormire. O la sera, la mattina. Prima di andare a dormire. La sera. Così la notte fa tutto l'effetto. Sì. Anche i bambini. I bambini. I bambini non devono lavarsi i denti prima di andare a dormire, perché se no legano l'andare a dormire con il lavaggio dei denti, cioè io mi lavo i denti dopo vado a dormire. Allora, e no, quindi che c'è una relazione causa-effetto che a loro non piace assolutamente. Ai bambini bisogna lavarli dopo aver mangiato, in modo che dopo aver mangiato lavano i denti, guardano i cartoni, quindi c'è una relazione positiva, lavo i denti, guardo i cartoni e dopo vado a letto. Quando si vede che ha dei bambini e se le inventa tutte. Allora, anche Ivan da Brescia ha dei bambini. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie. Buongiorno. Ivan. Ecco, infatti la mia domanda era questa, visto che ho due bambini di 10 anni e 8, volevo chiederle se la sigillatura ai denti permanenti usciti era utile, se questo li proteggeva dalle carie fino all'età adulta, come qualcuno mi ha detto, se invece, come altri mi hanno detto, non è vero, non serve a niente. Ecco, volevo sapere questo. Professore. La sigillatura dei denti deve essere fatta in due condizioni. La prima condizione è che il soggetto sia un soggetto a rischio carie, e quindi se suo figlio ha 10 anni e non ha neanche una carie, significa che non è a rischio carie, e quindi tendenzialmente dire di no. L'altra è l'anatomia del dente. Se il dente ha dei solchi molto profondi, l'indicazione è fare la sigillatura. Quindi se suo figlio non ha una carie in bocca e ha dei solchi abbastanza piatti dove la saliva passa, dove è facile spazzolare, io direi sigillatura no. Se invece ha una o due carie in bocca, assolutamente sigillatura sì, perché è assolutamente predisposto. La cosa che aggiungerei è relativamente alla prevenzione, il fluoro. Recentemente il Ministero della Salute ha rivisto, dicembre dell'anno scorso, le nuove raccomandazioni in termini di fluoro. prima si era sempre abituati a pastiglie, a gomme, e questo era un problema di gestione. Oggi dentifricio, basta prendere un dentifricio che abbia sull'etichetta 1000 ppm, 1000 parti per milioni, e utilizzarlo per tutta la famiglia. Nel bambino piccolo da 3 anni in poi un pezzettino, e da 6 anni la classica strisciata. Grazie al professor Levrini, torni grazie presto a trovarci. Io torno tra pochissimo nel giornale radio, ti aspetto, però denari, dopo vengo sì, a prenderti. Perché facciamola, e Cuore Denari torna domani. Caffè, possiamo? Sì, chiedi il permesso. Diciamo. Alle 10:30. A domani. Buona giornata.